chiunque tu sia, intendi come in questo fuggire del tempo ti scopra più sbattuto tra tempeste e uragani che in cammino su solida terra, non distogliere gli occhi dal nocchiero celeste se non vuoi essere travolto e perire. Se forti spireranno i venti delle tentazioni, se ti imbatterai negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sarai sbattuto tra i marosi della superbia, dell'ambizione, dello scandalo, della rivalità, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira o l'avarizia o i desideri disordinati avranno squassato la navicella della tua mente, guarda alla stella, invoca Maria. Se turbato dall'enormità dei tuoi peccati, confuso dalla coscienza della deformità dell'anima tua, atterrito dal terrore del giudizio incombente, ti sentirai come attirato nel baratro della depressione nera. Nell'abisso della disperazione, volgi il pensiero a Maria. Nei pericoli, nelle angustie interiori, nel dubbio che ti disintegra, pensa a Maria, invoca Maria. Seguendo lei, non sbagli strada, pregando lei, non cadrai mai disperato. Pensando a lei, non cadrai nel falso. Se lei ti prende la mano, non ti schianterai. Se lei ti protegge, non avrai paura. Se lei ti guida, non ti stancherai. Se lei ti è propizia, giungerai alla meta.